Simone, Giorgio Gabrini, al pianoforte, e qui alle spalle, con le spalle, questo murale che rappresenta il contributo della Commissione Artistica del Movimento e delle Arti Figurative a questa grande manifestazione, daranno vita appunto a questo che possiamo già da ora definire un grande concerto. Comincio subito con quattro blues, perché il blues è alla base del jazz e il blues è canto popolare, e niente meglio del blues può introdurre questo nostro concerto. I blues sono temi, questi che suonerò sono temi famosissimi, nell'ordine St. James Infirmary, Basin Street Blues, Novo di Nozio, When You're Done Now, e il celeberrimo tema di Monk, Blue Monk. Grazie.